Agorà in onda. Agorà in onda. Rubrica di informazione giuridica e attualità a cura dell'avvocato Marco Mampieri. Fanno queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa. Andea, andea, a misura di braccio, a distanza di offesa, che alla pace si pensa, che la pace si sfiora. Andea, andea. Due famiglie disarmate di sangue si schierano a resa, e per tutti il dolore degli altri è dolore a metà. Si accontenta di cause leggere la guerra del cuore, il lamento di un cane abbattuto da un'ombra di passo. Si soddisfa di brevi agonie sulla strada di casa. Uno scoppio di sangue e un'assenza apparecchiata per cena. Andiamo a iniziare quest'oggi l'appuntamento con Agorà in onda. Più volte ve lo abbiamo ricordato, l'appuntamento oggi è molto delicato perché parliamo della violenza di genere. Abbiamo voluto iniziare proprio con De André, questo è un testo molto poetico, ricchissimo di immagini molto, molto forti, che descrivono come straordinaria efficacia la lotta tra gruppi opposti, che siano esse famiglie, come in questo testo semplicemente fazioni, oppure proprio soprattutto in ambienti piccoli come quelli della famiglia, praticamente, perché spesso e volentieri la violenza parte proprio da lì. Con questo do il buongiorno a Marco, il nostro avvocato, e al capitano, comandante della compagnia dei carabinieri di Palestrina. Buongiorno entrambe. Buongiorno. Buongiorno Stefano e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Onda Libera. Allora, abbiamo preso un po' più di spazio quest'oggi per vari motivi, di varie necessità. Io lascerei subito la parola a te, Marco, perché poi abbiamo già parecchie domande da parte dei nostri ascoltatori, soprattutto ascoltatrici. Prego. Allora Stefano, buongiorno. Questa mattina abbiamo voluto dedicare lo spazio radiofonico della trasmissione Agorà in onda a un fenomeno sociale molto importante, che è quello della violenza di genere. Lo abbiamo voluto fare approfondendo, sempre da un punto di vista giuridico, fornendo agli ascoltatori degli strumenti utili per poter aiutare soprattutto le donne vittime di violenza e avere un'informazione il più puntuale possibile. E lo facciamo questa mattina grazie all'intervento del capitano Maria Grazia Centrone, che nuovamente ha raccolto l'invito a partecipare alla trasmissione Agorà in onda. Prima di entrare nel merito e quindi vedere anche le domande degli ascoltatori, volevo fare una piccola premessa, come solito, per introdurre il tema sulla violenza di genere. Sì, ecco, Marco, scusa, prima che fai l'introduzione però vorrei dire una cosa. Siccome abbiamo invitato anche gli ascoltatori, le ascoltatrici in modo particolare, di utilizzare l'anonimato, io posso, poi non so se i nomi sono veri oppure no, comunque posso dire a Francesca, Donatella, Michela, Pamela, Claudia, Adriana, che tra poco parleremo, daremo le risposte alle domande che ci hanno fatto. Prego. Assolutamente, anche perché le ringrazio per aver fornito dei quesiti alla trasmissione, proprio perché è un tema sentito e di conseguenza siamo qui anche per poter dare delle risposte, anche se in questa sede è una sede radiofonica. Però da un certo punto di vista possono essere sempre utili, perché utilizziamo il mezzo radiofonico per fare informazione giuridica in questo caso, collegandola però a elementi di stretta attualità, perché è cronaca di tutti i giorni purtroppo la violenza contro le donne e la violenza di genere in particolare. Voglio iniziare, ecco, proprio per non essere troppo pedante, ma allo stesso tempo però fornire degli elementi importanti, la trattazione di questo argomento, partendo in generale da quello che si intende per violenza di genere. La violenza di genere è stata un fenomeno io dico sociale, ma anche di arretratezza culturale, purtroppo, che si verifica nel nostro paese, e sul quale, non solo nel nostro paese, però nel nostro paese sta assumendo fenomeni abbastanza importanti, perché solo nel 2016 sono stati 149 gli omicidi di donne, mentre fino a novembre del 2017 sono stati 114. All'inizio del 2018 sono già diverse le donne che sono state oggetto di violenza, sia domestica ma anche purtroppo vittime di omicidio, e di conseguenza sta crescendo questa spirale di donne che sono soprattutto, parliamo in questo caso di donne, ma non sono soltanto le donne, perché la violenza di genere riguarda anche le persone deboli in generale. Da questo punto di vista l'ordinamento italiano ha posto rimedio a questo fenomeno crescente introducendo nel nostro ordinamento la legge 119 del 2013, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 94 del 2013, che era stato intitolato Disposizioni urgenti in materia di sicurezza per il contrasto alla violenza di genere, aggiungendo però nella stessa disposizione normativa anche norme sulla protezione civile e di commissariamento delle province. Quindi diciamo hanno fatto un provvedimento omnibus per contrastare un fenomeno che nel 2013 era ritenuto di rilevante allarme sociale, e di conseguenza hanno legiferato in materia. Ma la legislazione su questo punto da parte del nostro Parlamento ha recepito una direttiva dell'Unione Europea, la 219/29 dell'Unione Europea appunto, e la Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, quindi la legge che il Parlamento ha approvato in sede di conversione del decreto legge 94 del 2013 ha recepito nel nostro ordinamento un'indicazione che veniva sia dalla Convenzione di Istanbul che tanto più dalla norma dell'Unione Europea con la direttiva 29 appunto del 2012. Ed è proprio dalla direttiva che nella sua parte emotiva, quindi nel considerando numero 17, che viene esplicitata quella che viene definita la violenza di genere come la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere, o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere, capaci in quanto tale di cagionare un danno fisico, sessuale, emotivo, psicologico o una perdita economica della vittima. Nel successivo considerando numero 18, la direttiva specifica altresì che la violenza nelle relazioni strette è quella commessa da una persona che è l'attuale o l'ex coniuge o partner della vittima, ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima. Quindi in questa direttiva viene specificato proprio quello che si intende per violenza di genere. Dall'altro punto di vista, spesso sentiamo quotidianamente parlare di femminicidio. Ecco, questa è una definizione giornalistica che però non trova corretta applicazione all'interno del nostro codice penale, perché non esiste una fattispecie tipica che riguarda il fenomeno del femminicidio. Possiamo considerare il femminicidio come un concetto culturale di violenza di genere. È un'espressione che descrive il fenomeno con riferimento alle sue basi empirico-criminologiche, ponendo in risalto la posizione e il ruolo dell'autore, che spesso è un uomo. Quindi da questo punto di vista volevo precisare fare questa opportuna premessa, perché partire quindi dalla violenza di genere, che è il contenuto della disposizione normativa che oggi stiamo commentando, e chiarire l'aspetto diciamo in senso ampio di femminicidio, però non riconducendolo ad una fattispecie specifica di reato. E su questo ovviamente coinvolgo nella discussione, avendo fatto questa piccola premessa, il capitano dei carabinieri Maria Grazia Centrone, alla quale voglio chiedere effettivamente quali sono i reati che possono comunemente essere accostati alla violenza di genere. Quindi da questo punto di vista, proprio perché ho specificato che il femminicidio non esiste come fattispecie di reato, chiariamo agli ascoltatori quali sono, perché saranno oggetto anche delle domande che le ascoltatrici ci hanno posto, quali sono i reati che comunemente vengono associati alla violenza di genere. Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito ovviamente. Oggi mi fa piacere essere qui perché forse il problema più attuale che ci sia questo della violenza di genere, e mi sento di poter dire che stiamo facendo tanti passi in avanti. C'è ancora tanto da lavorare, ma tutte le istituzioni veramente si impegnano tantissimo per cercare di aiutare le vittime dei casi di violenza di genere, e soprattutto l'impegno è far emergere i casi sommersi, che poi sono il problema reale, perché non è il problema di quelli che delle donne che hanno il coraggio di denunciare, tutto sommato non si pone, perché già abbiamo fatto tanti passi in avanti. Il vero problema sono poi i casi sommersi. Però senza divagare troppo, i reati, diciamo così, associati alla violenza di genere generalmente sono tantissimi, perché può avere mille sfaccettature. È compito poi della polizia, dei carabinieri, costruire l'intera vicenda e prospettare l'autorità giudiziaria la storia, appunto, della vittima, in modo da poter emettere una misura cautelare nei confronti del potenziale stalker o maltrattante. Però in genere quelli più comunemente associati alla violenza di genere sono lo stalking, previsto dall'articolo 612 bis del nostro codice penale, la violenza sessuale, prevista dal 609 bis del nostro codice penale, e nei casi più estremi il femminicidio, ma abbiamo anche i maltrattamenti in famiglia. E poi ha tanti altri reati minori, perché ad esempio diciamo così, anche condotte reiterate di minaccia, di violenza, violenza che non può essere anche, non è solo fisica ma anche psicologica, vanno a delineare tutti, diciamo così, questi tipi di reati. Lo stalking è un termine che abbiamo imparato a conoscere bene, no? E ormai è di uso comune, è di origine anglosassone, ecco. Da to stalk, fare la posta. Ecco, proprio. A tal proposito, Claudia ci chiede come si configura il reato di stalking e cosa succede di solito dopo una denuncia e cosa si deve fare per ottenere l'allontanamento del maltrattante. Ecco, in questa domanda che Claudia ci ha posto esistono diverse, risponderemo, perché anche le domande che gli altri ascoltatori ci hanno posto configurano alcune questioni che anche la domanda di Claudia in parte racchiude, quindi risponderemo a tutte cercando di partire, ecco, in questo caso dallo stalking, come appunto viene definito dall'articolo 612 bis del codice penale, come atti persecutori viene rubricato dal nostro codice penale. Sì, mi piace ripetere proprio le parole del codice nei suoi elementi salienti, quando il 612 bis dice che il reato è punito con la reclusione, ma lasciando perdere adesso la pena, chiunque con condotte reiterate significano due o più di due, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria di un prossimo congiunto, di una persona al medesimo legato da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso a alterare le proprie abitudini di vita. Quindi basta che, è sufficiente che una persona con due condotte o più di due, o di molestia o di minaccia, provochi nella vittima una alternativa di queste tre cose: o un perdurante e grave stato d'ansia di paura, o ingeneri nella vittima un fondato timore per l'incolumità proprio, quello di un proprio diciamo così caro, oppure costringe la vittima con queste condotte di molestia o minaccia a alterare le proprie abitudini di vita. Quindi sono sufficienti due condotte di molestia o due condotte di minaccia per far configurare il reato. Queste condotte, ovviamente, di molestia o minaccia devono essere tali da provocare quelle tre cose che, insomma, abbiamo detto, in maniera alternativa, non ci devono essere per forza tutte e tre. Quindi è molto semplice, secondo me, configurare il reato di stalking. Reato di stalking che può essere posto in essere da un ex fidanzato nei casi più comuni. E la violenza, le condotte di minaccia, di molestia, sono condotte di violenza che possono essere, come ci chiedeva Francesca, la violenza psicologica come si riconosce? Non è difficile da riconoscere, ma noi abbiamo delle casistiche che sicuramente sono ricorrenti, perché la violenza psicologica significa svalorizzazione della persona, significa isolamento della persona, intimidazione, ricatto sui figli e così via. Ed è una vera e propria costituisce una vera e propria spirale. Per esempio, facciamo qualche esempio pratico così i nostri ascoltatori capiscono. Una violenza psicologica è costituita da forme di isolamento, per esempio, sia quando il stalker o comunque il maltrattante costringe la propria partner a limitare i rapporti con la famiglia originari o con gli amici, sia quando viene limitato o impedito l'accesso allo studio, al lavoro, a frequentazioni professionali. Quindi sono cose molto subdole, molto sottili, che però messe insieme e dette a noi operatori di polizia giudiziaria hanno un certo peso. Magari uno a volte non se ne rende nemmeno conto, però sono forme di violenza psicologica. Abbiamo anche forme di violenza economica, come il controllo costante della spesa, l'illimitazione, l'impedimento all'utilizzo del denaro e il non accesso alle informazioni sull'ammontare del reddito familiare, oppure da altre forme di controllo sui contatti con le altre persone, l'imposizione sul come vestirsi, pettinarsi, come comportarsi in pubblico o il richiedere informazioni pressanti sugli spostamenti, sulle comunicazioni e il controllo sugli spostamenti della donna. E per ultimo, anche la svalorizzazione è una forma di violenza psicologica, spesso avviene in pubblico con critiche per l'aspetto esteriore, per la gestione di come la donna gestisce la casa o i figli, oppure umiliazioni e offese di fronte ad altre persone, diciamo. Quindi la violenza psicologica è difficile da individuare, ma le forme sono tantissime e quelle che vi ho detto sono quindi, giusto un po'. Da un punto di vista pratico, esistono diverse condotte che possono portare alla violenza psicologica, questo per dare una risposta a Francesca, che ci chiedeva appunto la configurazione di questo tipo di violenza all'interno soprattutto del contesto familiare, perché come abbiamo detto la violenza di genere è una violenza che si e soprattutto nell'ambito ristretto si configura attraverso persone che sono vicine alla vittima. E con questo ci fermiamo un attimino, facciamo una pausa pubblicitaria, visto che il capitano ha parlato proprio di quello che appunto succede nel privato e bisogna farlo diventare pubblico andando a denunciare certi atti, posso chiudere questa prima fase con una frase molto d'impatto, che è: fate del vostro dolore privato un atto pubblico, e soprattutto capire che una donna non deve morire per mano del proprio amore. Questo è quello che bisogna capire. Agora in onda. Agora in onda. Rubrica di informazione giuridica e attualità a cura dell'avvocato Marco Mampieri. Prendiamo la seconda parte di questo appuntamento con Agora in onda. Quest'oggi ci stiamo occupando della violenza di genere. In studio con noi c'è anche il capitano, comandante della compagnia di Palestrina, Maria Grazia Centrone, e io do la parola a loro, anche a Marco, naturalmente, il nostro avvocato, che ci accompagna ogni venerdì con Agora in onda. Prego Marco, a voi la parola. Sì, rientriamo in trasmissione dopo le bellissime parole della canzone della Vanoni, Imparare ad amarsi, e proprio su questo affrontiamo il tema in questa seconda parte di trasmissione legata alla violenza di genere. Abbiamo ripreso il filo sulle domande che le ascoltatrici ci hanno posto prima della trasmissione, che ringrazio per essersi esposte, anche se con noi magari anche di fantasia, perché dalle domande comunque si evince la necessità di dover affrontare e parlare e fare informazione su questo tema specifico. E quindi io rientrerei direttamente nel merito rispondendo in parte rispondendo alla domanda di Pamela, che ci chiede che se decido di esporre denuncia cosa succede a lui, e volevo sapere se i tempi della denuncia e della notifica sono brevi o lunghi. Allora, innanzitutto esiste sia l'aspetto penale, quindi attraverso la proposizione della denuncia per i vari tipi di reato, perché può essere lo stalking, può esserci la lesione, la minaccia, come diceva anche il capitano poc'anzi, sono diverse le fattispecie che possono integrare la cosiddetta violenza di genere. E dall'altro punto di vista, quindi la denuncia, che cosa succede? Viene intanto informata l'autorità di pubblica l'autorità giudiziaria attraverso la polizia giudiziaria, che avrà il compito di indagare se effettivamente sussistono le fattispecie di reato che, come abbiamo parlato, spesso si connotano per una condotta spesso psicologica, e quindi vanno esplorate da un punto di vista anche delle indagini la veridicità o meno, la sussistenza degli elementi tipici delle varie fattispecie che possono comporre la violenza di genere. Quindi se i tempi della denuncia alla notifica sono brevi o lunghi, assolutamente proprio l'intento del legislatore con la legge 119 del 2013 di conversione del decreto 93 del 2013 ha proprio imposto, diciamo, su questo punto di vista un'accelerazione rispetto ai tempi riguardo la possibilità appunto delle indagini, ma soprattutto anche della piena informazione che la vittima, quindi il denunciante, deve avere rispetto all'esito delle indagini, proprio perché sono temi estremamente delicati. Quindi da questo punto di vista Pamela non sono tempi lunghissimi, però debbono esserci sempre le garanzie processuali, però chi denuncia verrà costantemente informato dal pubblico ministero, quindi anche attraverso la polizia giudiziaria, dello svolgimento delle indagini che la polizia giudiziaria stessa porterà avanti. Dopodiché proprio sugli strumenti anche procedimentali, quindi prima che la persona vittima di reato può presentare, chiedo al comandante di esplicitarsi, per esempio sia nello stalking, ma anche con per quanto riguarda le lesioni personali e le percosse, di parlarci di uno strumento che precede e quindi una possibilità che le vittime hanno per contrastare il fenomeno sul nascere, sia nel caso di stalking che di questi altri reati. Quindi se ce ne può parlare di questa misura preventiva. Allora sì, molto spesso mi capita che le donne mi prospettano situazioni di violenza o di stalking, però mi dicono: io non voglio rovinarlo, non voglio rovinare, comunque io le ho voluto bene, non voglio rovinare il mio ex partner e così via. Quindi esiste una specie di doppio binario, esiste per quanto riguarda lo stalking la possibilità o di presentare denuncia querela, oppure una misura, diciamo così, un po' più soft, la chiamo io, che è la possibilità di chiedere l'ammonimento da parte del questore, che qui, diciamo così, non entriamo nel penale, ma è una misura appunto preventiva. La norma prevede, l'articolo 8 della legge 38 del 2009, poi modificata con alcune integrazioni che ovviamente hanno rafforzato lo strumento, prevede che la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. Praticamente la donna viene anche competente a a fare questo ammonimento è il questore, però una donna può presentarsi in qualsiasi caserma dell'arma dei carabinieri, esporre i fatti, noi prepariamo la proposta, la mandiamo al questore e poi sarà l'autorità di pubblica sicurezza che prenderà informazioni, chiamerà lo stalker in questo caso e lo ammonirà sul comportamento da tenere. Questa è una misura importante perché in quei casi non gravi o nei casi in cui magari una donna non è convinta di voler denunciare, c'è comunque una soluzione, perché l'uomo si vede comunque essere viene convocato in questura e viene ammonito sul comportamento che deve tenere, quindi è già un avvertimento molto forte che gli si dà, perché avviene dalle istituzioni. L'ammonimento però, diciamo così, nel 2013 è stato rafforzato perché la polizia giudiziaria può, e quindi anche noi carabinieri o insomma la polizia può anche proporlo al questore, che può emanarlo anche in assenza di querela o in assenza di una proposta della parte offesa, quando ci sono delle segnalazioni delle forze dell'ordine che vengono a sapere di altri reati commessi nell'ambito di violenza domestica, appunto. Per cui lo strumento dell'ammonimento è uno strumento molto importante. Diciamo così, Pamela che ci chiede ecco, se i tempi di denuncia sono brevi o lunghi. C'è da dire innanzitutto da distinguere grosso modo quando i fatti sono gravi, avvengono sul momento, noi interveniamo sul posto e se interveniamo in flagranza c'è l'arresto obbligatorio per i maltrattamenti in famiglia e per lo stalking l'arresto è obbligatorio quando è preceduto appunto dall'ammonimento, ossia se noi interveniamo in una situazione per cui già lo stalker è stato ammonito, allora lì lo arrestiamo in flagranza. Possiamo anche arrestarlo se interveniamo in flagranza e non c'è questo ammonimento, poi dipende da caso a caso. Quindi c'è da una parte un intervento immediato con i nostri arresti, poi noi abbiamo un obbligo come polizia giudiziaria, quando interveniamo sul posto, anche di prospettare, di diciamo così informare, di dare indicazioni senza ritardo sui centri antiviolenza alle vittime di atti persecutori e di altri reati riconducibili alla violenza di genere. Ecco, su questo la interrompo un attimo perché anche Donatella ci chiedeva che cosa può succedere a seguito di una denuncia. Ecco, come il capitano ci ha poc'anzi esposto, può accadere che lo stalker o anche in caso di lesioni o minacce o altre fattispecie di reato ci possano essere delle misure cautelari da questo punto di vista che servano a soprattutto ad allontanare l'autore del reato dalla casa familiare. Quindi esistono due misure specifiche, una in particolare che riguarda la polizia giudiziaria di cui ce ne parlerà direttamente il capitano, rispetto all'allontanamento dalla casa familiare. E che cosa può succedere a seguito di denuncia? Nel caso di flagranza di reato ci può essere l'allontanamento urgente da parte della polizia giudiziaria, quindi in questo caso direttamente i carabinieri sempre su disposizione del magistrato, del pubblico ministero, sia in forma scritta che anche in forma orale, successivamente possono disporre immediatamente l'allontanamento dell'autore del reato in caso di flagranza, sia per quanto riguarda lo stalking che per quanto riguarda le altre fattispecie di reato. E su questo ovviamente anche Michela ci chiede quali conseguenze legali sui miei figli e sui minori, ed esistono appunto quelle che lei diceva poc'anzi, no? Le case rifugio o i centri antiviolenza qualora ci fosse quest'ordine di allontanamento. Quindi da questo punto di vista la donna non deve temere, perché anche sul nostro territorio esistono, e quindi ce ne parlerà direttamente il capitano. Sì, cerco di spiegare in modo molto semplice, in parole molto povere, quali sono gli strumenti, come interveniamo, perché poi la casistica è molto ampia. In pratica quando viene la donna in caserma e denuncia e ci espone tutta una serie di fatti, iniziano le indagini del caso e quindi noi relazioniamo subito immediatamente l'autorità giudiziaria a ciò che la donna ci ha riferito, facciamo le indagini e chiediamo subito all'autorità giudiziaria, se non c'è ecco la flagranza, chiediamo all'autorità giudiziaria o un divieto di avvicinamento alla parte offesa o un ordine di allontanamento appunto dalla casa familiare, oppure se i fatti sono gravi in una misura cautelare di custodia, che può essere o una misura cautelare agli arresti domiciliari se le due persone non vivono più assieme, oppure una misura cautelare della custodia in carcere nei casi appunto più gravi. Se la misura viene violata, se ad esempio all'uomo gli viene notificato il divieto di avvicinamento e l'uomo lo viola, scatta subito l'arresto e la custodia cautelare in carcere. Quindi poi c'è un'escalation anche di misure di aggravamento delle varie misure che ci sono, e devo dire da questo punto di vista che l'autorità giudiziaria è molto sensibile alla materia e è molto tempestiva anche nell'adozione di questi tipi di misura. Quando però succede che la donna ci troviamo in una situazione per cui deve essere fatto subito un un allontanamento urgente, non c'è la possibilità di aspettare né l'emissione della misura da parte dell'autorità giudiziaria, non siamo nei casi di flagranza, noi abbiamo la possibilità di informare la donna e di collocare una donna in strutture protette, nei centri antiviolenza, anche con i propri figli, e ci capita pressoché quotidianamente. È successo l'altro giorno a Cave che una signora non ce la faceva più, è venuta in caserma, ha detto: io ho paura di restare con il mio compagno perché mi fa violenza sia psicologica che fisica. Non potevamo agire in flagranza perché non era successo il fatto e quindi la legge non ci permetteva di arrestarlo in quel momento, per cui in maniera cautelativa abbiamo preso la donna e l'abbiamo collocata in una struttura protetta che rimane appunto segreta. Poi invece se agiamo, se interveniamo durante una lite in famiglia e arrivano i carabinieri a casa, ecco, nel culmine di una lite, però non ci sono quegli estremi, non c'è stata una violazione di reato che ci permette di procedere all'arresto, ma si tratta di reati minori, proprio per comunque non lasciare la donna sola, possiamo, c'è uno strumento che nelle normative, una recente legge del 2013 ci ha per fortuna consentito, che è l'allontanamento urgente dalla casa familiare. Il nome stesso ci fa capire che è appunto una misura che possiamo prendere nell'immediatezza comunicando al pubblico ministero come stiamo procedendo. Quindi nel caso in cui la donna è stata picchiata ma ha ricevuto, che ne so, 2 giorni di lesioni, oppure è stata minacciata o è stata percossa, per cui non abbiamo immediatamente la configurazione del reato di maltrattamenti, oppure di non ci sono, ecco, cose procedibili d'ufficio per cui possiamo fare l'arresto, ma comunque la donna ci prospetta che ha timore, ha paura, non possiamo lasciarla lì sola, per cui possiamo se l'uomo per esempio è scappato in quel momento e non riusciamo a trovarlo, prendere la donna, non lasciarla sola a casa e portarla, come ho detto prima, nella struttura protetta, oppure si può ordinare a lui di allontanarsi urgentemente dalla casa familiare, quindi si dà atto che viene allontanato. La donna quindi non diciamo così, abbiamo gli strumenti oggi per poter agire. È una cosa molto importante che volevo dire, è che le istituzioni, c'è veramente una collaborazione intensissima tra le istituzioni, tant'è che nel novembre del 2016 è stato firmato un protocollo tra la Procura di Tivoli, con la collaborazione, ecco, della Procura della Repubblica di Tivoli, l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Tivoli, l'ASL Roma 5 e l'Ordine delle Psicologi del Lazio, io stessa partecipo come, ecco, referente dei carabinieri per il comprensorio della Procura di Tivoli a delle riunioni periodiche, per cui abbiamo un tavolo tecnico interistituzionale, e con queste riunioni periodiche che stiamo facendo, in cui ci sono vari attori, ci sono gli psicologi, gli assistenti sociali, le scuole, stiamo procedendo alla stesura di un protocollo operativo, in modo che tutti gli operatori potranno avere questo protocollo e ci saranno delle procedure condivise in modo da agevolare la vittima nell'esporre i fatti per cui rimane i reati di violenza di genere in generale. E finisco, per quanto riguarda, è molto molto importante questa collaborazione, l'attivazione di uno spazio di ascolto, per cui vorrei brevemente dare le indicazioni agli ascoltatori che ci ascoltano. È stato creato, grazie a questo protocollo d'intesa, lo spazio di ascolto e accoglienza delle vittime di reato in condizioni di particolare vulnerabilità. È stato istituito proprio da questo protocollo, come diciamo, ed è organizzato per offrire consulenze psicologiche legali alle vittime di reato e alle loro famiglie. Quindi si tratta di un ufficio presente presso i locali della Procura della Repubblica di Tivoli, a 2 ingressi, via Antonio Del Re e viale Niccolò Arnaldi a Tivoli. È aperto il martedì, il mercoledì e il venerdì. Il martedì dalle 10 alle 14, il mercoledì dalle 14 alle 18, il venerdì dalle 10 alle 14, e per richiedere un incontro si può fare in 3 modi, si può chiamare, se posso dire il numero, certo, alla radio, allo 0774 45 1803, oppure lo ripeto 0774 45 18 03 oppure scrivere a info@vittime.tivoli@giustizia.it oppure recarsi direttamente allo sportello. In questo sportello ci sono avvocati e psicologi volontari che fanno assistenza e danno consulenza psicologica e legale alle vittime di reato, quindi seguono la vittima e dicono tu hai questi strumenti normativi, gli spiegano come sarà l'iter quando deciderà di denunciare e così via. Per cui io mi sento dire che c'è veramente un impegno, è stato fatto molto nel corso del tempo e qualche anno fa non era così, gli strumenti legislativi erano molto più scarsi rispetto ad oggi. Quindi, scusate la, no, se sono stata un po' prolissa. È stata puntuale su tutte le anche per rispondere alla domanda di Adriana che ci chiedeva quali garanzie di protezione la legge prevede nei casi di allontanamento della vittima. Quindi abbiamo detto ci possono essere le case, i centri antiviolenza, le case rifugio, esistono gli sportelli, ecco, quindi non abbiate timore, soprattutto le persone che si sentano in questa condizione di dover denunciare. Esiste l'ammonimento, abbiamo visto come misura preventiva, esiste la fase della denuncia, esiste la possibilità che sia l'autorità giudiziaria che in caso di flagranza, come ricordava prima il capitano, anche la stessa autorità di polizia giudiziaria possa procedere all'allontanamento dell'autore della violenza dal contesto familiare. Non succede nulla ai figli per quanto riguarda la domanda che ci chiede chiedeva a Michela, quali conseguenze legali potrebbero avere sui miei figli? Nessuna, anche perché proprio per garantire un contesto protetto esistono appunto le case rifugio presso le quali le donne che temono che ci possa essere violenza perpetrata su di loro possono, attraverso l'autorità della pubblica sicurezza, recarsi. Esiste un numero di pubblica utilità che è il 1522 in cui le donne possono rivolgersi per ottenere un sostegno e quindi da questo punto di vista essere aiutate, così come lo sportello di cui parlava poc'anzi il capitano, fatto in collaborazione con la procura, con l'ordine degli avvocati e gli psicologi, esiste su Tivoli. Quindi non abbiate timore di dover denunciare delle condotte che si configurano come reati, soprattutto perché riguardano delle violenze che hanno delle conseguenze importanti sotto l'aspetto familiare, sociale e personale delle vittime stesse. Ringrazio anche coloro che hanno condiviso con noi questa puntata sulla nostra pagina Facebook. Grazie Maria in modo particolare, anche a Maria grazie centro di noi. C'è un'altra Maria che ha detto ok, va bene così, complimenti. So che deve andare, capitano, purtroppo ci sono tanti di quegli impegni, noi non la tratteniamo di più, la ringraziamo per essere stata con noi, la invitiamo nuovamente a tornare perché poi questo è uno di quei temi che sicuramente non possiamo lasciare in evaso, bisogna continuare ad approfondire e aiutare soprattutto le persone che forse non hanno ancora il coraggio di fare alcune cose. Secondo me da quando forse i carabinieri sono diventate donne, qualche cosa di più si è fatto e qualcuno sta prendendo più coraggio verso l'istituzione, verso la divisa praticamente. Sì, diciamo che la donna agevola comunque l'apertura della vittima, però ci sono anche tanti, ecco, finisco semplicemente dicendo che il comando generale da questo punto di vista ha organizzato tantissimi corsi di formazione, quindi il nostro personale viene veramente formato per conoscere appieno la normativa e per ci sono tanti corsi anche in cui i militari, i nostri carabinieri vengono addestrati ad essere proprio all'approccio con la vittima, che deve essere un approccio, ecco, comprensivo e di fiducia. Quindi c'è tanta formazione, le donne sì sicuramente sono più sensibili, però abbiamo tantissimi carabinieri veramente altrettanto sensibili e bravi nell'approccio con le vittime. Bene, io la ringrazio. Grazie a voi, ci vediamo prestissimo. Mi associo ai ringraziamenti, noi ci vedremo venerdì prossimo. In cui avremo ospite un membro dell'associazione Luca Coscioni, in cui parleremo della cosiddetta legge sul biotestamento, o meglio le norme sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento. Utilizzo la radio per un mezzo personale, in questo caso, visto che abbiamo parlato di donne, volevo fare i migliori auguri di buon compleanno a mia moglie per questo suo giorno, per questa sua ricorrenza e questo giorno che trascorreremo insieme. Meno, grazie oggi ancora. Abbiamo chi buon ci compleanno paga la, Ingrid. Abbiamo chi ci paga l'aperitivo oggi. A venerdì prossimo, grazie. Buon weekend a tutti. Agora in onda. Agora in onda. Rubrica di informazione giuridica e attualità a cura dell'avvocato Marco Mampieri.